الدخان، الفومو. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. حميم. حميم. والكتاب المبين. Per il libro esplicito. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. Lo abbiamo fatto scendere in una notte benedetta. In verità siamo noi ad ammonire. فيها يفرق كل أمر حكيم. Durante la quale è stabilito ogni saggio decreto. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. Decreto che emana da noi. Siamo noi ad inviare i messaggeri. Rahmatan min Rabbik, innahu huwas-sami'ul 'alim. Segno della misericordia del tuo Signore. Egli è udiente, sapiente. رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُم مُّوقِنِينَ. Il Signore dei cieli, della terra e di quel che vi è fra mezzo. Se solo ne foste convinti. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. Non c'è Dio all'infuori di Lui, colui che dà la vita e dà la morte. Il vostro Signore e il Signore dei vostri più lontani antenati. Bal hum fi shakkin yal'abun. Ma quella gente invece dubita e scherza. Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin. Ebbene, aspetta il giorno in cui il cielo recherà un fumo ben visibile. Che avvolgerà gli uomini. Ecco un castigo doloroso. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. Diranno: Signore, allontana da noi il castigo, perché ora crediamo. أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول. Da dove viene questa loro coscienza? Già giunse loro un messaggero esplicito? E gli voltarono le spalle dicendo: è un neofita invasato. إِنَّا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. Se per un istante allontanassimo il castigo da voi, certamente sareste recidivi. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. Il giorno in cui li afferreremo con implacabile stretta, ci vendicheremo. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. Prima di loro mettemmo alla prova il popolo di Faraone quando giunse loro un nobilissimo messaggero. أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Che disse: datemi i servi di Allah, io sono per voi un messaggero affidabile. وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Non siate insolenti nei confronti di Allah. In verità vengo a voi con evidente autorità. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ. Mi rifugio in colui che è mio Signore e vostro Signore, affinché voi non mi lapidiate. وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ. Se non volete credere in me, almeno non siate mie ostili. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. Invocò poi il suo Signore: in verità sono un popolo di malvagi. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. Disse il Signore: fai viaggiare di notte i miei servi, sarete inseguiti. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إنهم جند مغرقون. Lascerà il mare aperto, sarà un'armata di annegati. كم تركوا من جنات وعيون. Quanti giardini e sorgenti abbandonarono. وزروع ومقام كريم. E campi e comode residenze. ونعمة كانوا فيها فاكهين. E il benessere di cui si deliziavano. كذلك وأورثناها قوما آخرين. Così fu. Demmo tutto ciò in eredità ad altro popolo. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. Non li piansero né il cielo né la terra, e non fu concessa loro dilazione alcuna. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Salvammo i figli di Israele dall'umiliante tormento. مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. Da Faraone che era tiranno e prevaricatore. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Con conoscenza di causa ne facemmo degli eletti tra le creature. Demmo loro segni che contenevano una prova palese. Ora questi dicono: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. Non avremo altro che la prima morte e non saremo risuscitati. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. Fate risorgere i nostri avi se siete veritieri. أهم خير أم قوم تب والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. Sono essi migliori o il popolo di Tubba o coloro che li precedettero? Li annientammo perché in verità erano malvagi. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Non creammo i cieli e la terra e quel che vi sta fra mezzo per gioco. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ولكن أكثرهم لا يعلمون. Non li creammo che secondo verità, ma la maggior parte di loro non lo sa. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. In vero, il giorno del verdetto è fissato per tutti quanti. Yawma la yughni mawlan 'an mawlan shay'an wa la hum yunsarun. Il giorno in cui nessun alleato darà rifugio al suo alleato in alcunché. E non saranno soccorsi. Illa man rahima Allah. Innahu huwal azizur rahim. Eccetto chi avrà la misericordia di Allah. In verità egli è l'eccelso, il misericordioso. Inna شجرة الزقوم. In verità, l'albero di Zaccum. طعام الأثيم. È il cibo del peccatore. كالمهل يغلي في البطون. Ribollirà nel suo ventre come metallo liquefatto. كغلي الحميم. Come bolle l'acqua bollente. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. Afferratelo e trascinatelo nel fondo della fornace. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. E gli si versi sul capo il castigo dell'acqua bollente. ذق إنك أنت العزيز الكريم. Gusta questo. Sei forse tu l'eccelso, il nobile? إن هذا ما كنتم به تمترون. Ecco quello di cui dubitavate. Innal muttaqina fi maqamin amin. I timorati avranno asilo sicuro. Fi jannatin wa uyun. Tra giardini e sorgenti. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. Saranno vestiti di sete broccato e staranno gli uni di fronte agli altri. كذلك وزوجناهم بحور عين. Sarà così, e daremo loro in spose fanciulle dai grandi occhi. Yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin. Colà chiederanno senza timore ogni tipo di frutto. La yazuquna fiha al-mauta illa al-mauta al-ula wa waqahum 'adhab al-jahim. E non proveranno altra morte oltre a quella prima morte terrena. Allah li ha preservati dal tormento della fornace. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. Per grazia del tuo Signore, questa è la più grande beatitudine. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. Abbiamo reso facile questo Corano nel tuo idioma affinché riflettano. Fartaqib innahum murtaqibun. Aspetta dunque, che anche loro aspettano.